mercoledì 17 dicembre dalle ore 9 alle ore 14 a Modena, ridotto del teatro Storchi, dei delitti e delle scene. Intanto vi dico che siamo in una particolare diretta telefonica con Cecilia Di Donato, regista per il teatro a Reggio Emilia, e intanto vediamo se riusciamo a sentirci. Buongiorno Cecilia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per questa disponibilità e di anticipazione e di contenuto. Ci puoi dire qualcosa di più su questa prospettiva? E sappiamo bene quanto Trasparenze prenda tutta la regione per quanto riguarda questi importanti contenuti e disponibilità di diffondere una prospettiva ed esperienza non solo regionale ma anche europea per quanto riguarda l'aspetto di teatro e carcere. Ti lascio la parola, Cecilia. Sì, allora buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Io rappresento appunto il coordinamento Teatro Carcere, che insieme al Teatro del Pratello ha organizzato questa giornata, che parte da domande che ci siamo posti come registi che lavorano all'interno delle strutture carcerarie e che abbiamo desiderio di porre anche in una prospettiva, come diceva prima, europea. L'idea è quella di chiederci che cosa accade quando un progetto artistico si sviluppa dentro un'istituzione totale come il carcere. Com'è possibile che tutti gli attori che collaborano alla realizzazione di uno spettacolo e più in generale ai progetti di teatro carcere all'interno della nostra regione e non solo, quindi in una prospettiva europea, possano collaborare affinché lo spettacolo sia una libera espressione artistica. L'idea è quella appunto di intervistare tutti gli attori che compongono diciamo la struttura carceraria, quindi avremo degli ospiti illustri sia istituzionali che artistici, per sviluppare diciamo un dibattito che porti proprio al centro l'arte all'interno di una struttura penitenziaria. Ci chiederemo se il lavoro in carcere può essere un lavoro artistico libero o se la struttura orienta al lavoro artistico. E l'altra domanda che ci porremo, che è molto importante per il nostro coordinamento, è quale valore ha il professionismo quando si lavora con le persone detenute e cosa succede quando gli attori e le attrici detenute condividono la scena con dei professionisti. E poi cercheremo di capire come in effetti il teatro può aprire delle possibilità, dei ponti, che questo crediamo che sia la cosa più importante, anche per la persona detenuta una volta finita la pena. Certo, e ho letto che saranno prove aperte a proposito del Macbeth. Ho avuto informazioni giuste, sì, confermo. Ha avuto informazioni giuste, infatti la giornata finirà appunto con la prova aperta del Macbeth, tra l'altro del Teatro dei Venti, che è notizia freschissima, ha vinto l'Ubu, quindi sì, ho letto, un grande applauso ai nostri colleghi del Teatro dei Venti. Siamo molto molto contenti anche che il sistema teatro in generale riconosca il valore di quello che è un progetto artistico all'interno del carcere. E ci sono anche progetti futuri ovviamente per quanto riguarda tutto ciò, non solamente un approfondimento sul qui ed ora, immagino. Ma no, assolutamente, il coordinamento continua a lavorare e cerca di costruire diciamo delle possibilità all'interno e all'esterno del carcere quotidianamente, chiaramente con una prospettiva del futuro, e credo che sia molto interessante non solo per gli addetti ai lavori ma per certo tutte le persone, perché il carcere comunque riguarda tutti noi, sì, perché fa parte della comunità e perché della comunità è comunque espressione, possa essere veramente interessante capire come poter far sì che attraverso l'arte ci sia un riscatto non solo sociale ma anche personale delle persone detenute. Certo, grazie all'arte, grazie al teatro, alla cultura d'incontro, dalle 9 alle 14 si inizia con l'accoglienza dalle 9 alle 9:30. Diverse sono le voci, molte le abbiamo avute anche ai nostri microfoni, come Elena Di Gioia, direttrice artistica di Emilia Romagna Teatro Fondazione, come Orazio Sertok, e come anche troviamo i motivi di contenuto di tutto ciò, Paolo Billi, che ringraziamo ovviamente, sempre presente per il coordinamento di queste iniziative. Già dalla prima parte, dalle ore 11 in avanti, il teatro carcere, fuori dal carcere, oltre il teatro, paradossi tra teatro e istituzione totale, radicamenti e aporie. Dopodiché nella seconda parte col coordinamento di Stefano Te, e alle ore 14 lo stacco, e poi a conclusione ore 16 la prova aperta del Macabeth, che è già stato sottolineato da Cecilia. Io ti ringrazio tantissimo per questa clip di segnalazione nel nostro Last Minute.